24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, eccoci a concludere la settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9. Saluto Carmelo Lauricella con noi anche oggi in regia. Allora, parleremo di tagli di politici, ma questa alle 8:30 non dovevano dimezzare i parlamentari, ci sono 800 proposte di legge in proposito, esagero, e però tutte rinviate, non si capisce, insomma cercheremo di capirne qualcosa di più. Questa alle 8:30 avremo ospite anche, ve l'annuncio tra un'ora, l'onorevole Alessandra Mussolini, dove Silvio, a casa della quale Silvio Berlusconi ha fatto la festa di compleanno. Oggi sui giornali ci sono tutti dei retroscena, ma appunto dai giornali vogliamo iniziare e dai giornali andiamo a sfogliare. In questo venerdì 30 settembre, intanto i titoli: Il Sole 24 Ore, il fondo salva euro passa a Berlino, mentre per il Corriere della Sera si apre su Banca Italia, avanza Saccomanni, è la nomina del successore di Mario Draghi. Per Repubblica, industriali schiaffo al governo. Per Il Messaggero, crisi, il piano delle imprese. Sulla Stampa, crescita, il governo rinvia. Per Libero, invece, la vicenda degli industriali è vissuta così: ci tocca mantenere pure gli industriali, fanno la morale al governo ma incassano 30 miliardi l'anno di incentivi. Per Il Giornale, indagano pure il TG1. Il Fatto Quotidiano, 3 settimane, poi il bavaglio e la legge sulle intercettazioni, anche l'Unità su questo, libertà. E c'è la foto di due persone che hanno i famosi post-it con scritto basta appuntati sulla bocca. Ma di notizie di cronaca, di economia, soprattutto di finanza, di politica, le vedremo tra poco. Prima le segnalazioni di qualche altra storia un po' più curiosa, ma sono sempre spaccati d'Italia, no? Come quella che racconta il Corriere della Sera, pagina 29, oggi. L'ovetto rubato che blocca la giustizia a Taranto. Un ragazzo di 24 anni finirà processo perché ha rubato un ovetto Kinder del valore di 1,04 euro. Il processo quanto le costerà? Migliaia di euro. E beh, insomma, racconta Giusy Fasano, valore della refurtiva 1,04 euro quando donato, 20 anni, studente. Potrebbe avere però presto un futuro da pregiudicato e vaglielo a spiegare se ti fermano per un controllo stradale che là sulla tua fedina penale c'è scritto che hai un precedente per furto ma era un ovetto Kinder. Ebbene sì, il 4 agosto 2009, allora aveva 18 anni, si avvicina a un ambulante, un venditore ambulante di frutta e dolciumi, prende un ovetto Kinder, lui poi giura, l'avevo preso per farlo vedere all'ambulante e pagarlo. L'ambulante invece dice no, se l'era messo in tasca e voleva rubarlo. Da lì seguono anche un battibecco, ingiurie, quindi diventa furto e ingiurie il processo. Ovviamente documenti, fotocopie, cancellieri, PM, avvocati, difensori, giudice, udienze, costi improponibili, tutto per un ovetto Kinder rubato. Valore, ripeto, 1,04 euro. E anche questa la giustizia italiana, raccontata dal Corriere della Sera oggi a pagina 29. Mentre in tempi di lotta all'evasione fiscale, che cosa ha pensato bene di fare l'Agenzia delle Entrate di Palermo? Lo racconta La Stampa con Laura Anello a pagina 29. Gli sposi sotto torchio del fisco. L'Agenzia di Palermo ha deciso di spedire a 2.000 novelli sposi negli ultimi due anni un questionario, negli ultimi mesi per la verità, un questionario con una serie di domande. Diteci a chi vi siete rivolti, quanto avete speso per i fiori, per il ricevimento, l'addobbo floreale, il servizio fotografico, il video, i confetti, le bomboniere, l'autonoleggio. Vogliamo sapere tutto, il bouquet della sposa, perfino questo, soprattutto quanto si è pagato e in cambio soprattutto se si è ottenuto la ricevuta oppure no. Roba da far impallidire la più giuliva delle spose, scrive Laura Nello. Considerato che per il matrimonio in Sicilia non si bada a spese, anzi si fanno pure debiti per impressionare amici e parenti con adunate oceaniche, discese scenografiche dai motoscafi, brindisi al tramonto. Ebbene, l'Agenzia delle Entrate ha deciso, ora fateci sapere tutto. In tempi in cui la lotta all'evasione è diventata un mantra per rabberciare manovre zoppicanti e più vacillanti tensioni etiche, ecco che l'Agenzia delle Entrate ha scelto di scovare l'evasione in grande. Quella di chi si sposa, fa magari dei matrimoni sontuosi. Ah, poi c'è il ristorante. Beh, certo, chi offre il banchetto nuziale è anche quello, una delle parti più onerose. Gli sposi sotto il torchio del fisco, succede a Palermo con il questionario dell'Agenzia delle Entrate spedito alle neofamiglie. Diteci a chi vi siete rivolti e diteci quanto avete speso. Attenzione, perché non rispondere, risponde così un commercialista, Sergio Marsala, ha intervistato. Chi non risponde rischia anche una denuncia. Anche questo è uno spaccato di Italia. Alle 7:33 minuti, eccoci allora, la lettura dei giornali, c'è una discreta dose di politica, ma c'è molta anche economia e finanza sulla quale ci concentreremo oggi. Beh, intanto Berlusconi, che ieri ha festeggiato appunto i 75 anni, un paio di giorni fa, in realtà a mezzanotte, si è presentato a casa dell'onorevole Alessandra Mussolini, che sarà nostro ospite alle 8:20, e ha esternato alcune cose, come in genere fa in queste occasioni pubbliche. Intercettazioni da regime comunista, così titola per esempio a pagina 12 il Corriere della Sera. Berlusconi ha annunciato: faremo la riforma, quella per la quale l'opposizione urla al bavaglio. Si è definito un fuoriclasse come Ibrahimovic, mentre gli altri, a partire da Bersani, Vendola, Di Pietro, sono sostanzialmente dei brocchi. Ma si è lasciato andare anche a un grido di dolore, racconta Paola Di Caro. Vale a dire questo: la verità è che vogliono farmi fare la fine di Craxi, hanno ucciso lui e adesso l'obiettivo sono io. La magistratura di Napoli si è comportata con leggerezza e disprezzo delle regole, come se si trattasse di un gioco e non della vita delle persone. Per questo Berlusconi ha rilanciato sul tema intercettazioni. Anche su Libero, a pagina 12, questo paragone con Craxi diventa il titolo: mi vogliono come Craxi ma non ce la faranno. Governare è inutile, guardate come hanno trattato Bettino, ma sulla sua tomba la gente va a deporre fiori. E poi ha parlato anche del futuro, facendo un paragone con Putin, che in Russia ha detto rimarrò fino al 2020 e rotti. E Berlusconi ha detto: Putin corre di nuovo per il Cremlino, magari anche io, chi lo sa. Questo per guardare al futuro. In realtà ci sono alcune grane politiche cui deve far fronte il Presidente del Consiglio. La prima è raccontata sempre dal Corriere della Sera in un retroscena, a pagina 12, a pranzo con Pisanu, 12 senatori ribelli, il rischio di sorprese. C'è qualcuno che dice il governo e giura cadrà al Senato, una profezia che ha preso girare a Palazzo Madama, visto che la Camera in questa legislatura è più blindata, mentre il Senato in questo momento è più defilato rispetto all'arena di Montecitorio. E racconta Monica Guerzoni di questo pranzo martedì 20 settembre nella saletta riservata del ristorante La Capricciosa a Roma, dove i ragionamenti di Pisanu e dell'ex premier Lamberto Dini con alcuni senatori insomma fanno pensare a una qualche sorta di fronda all'interno della maggioranza. Tra i senatori: Franco Orsi, Gabriele Boschetto, Paolo Amato, Massimo Baldini, Walter Zanetta, Paolo Scarpa Bonazza Buora. Questi sono i senatori citati, alcuni dei senatori che hanno partecipato a questo pranzo. E racconta Monica Guerzoni: al momento del dessert è stato servito soprattutto il piatto forte, la buccia di banana. Ovviamente una metafora per dire che l'incidente politico sul più banale dei provvedimenti potrebbe far precipitare tutto questo al Senato. Mentre un'altra piccola grana politica, se volete, è l'uscita dal Popolo della Libertà di un deputato, Santo Versace, che oggi fa una serie di interviste un po' dovunque. L'ho visto sul Fatto Quotidiano, il Secolo XIX, il Corriere della Sera. Per esempio al Corriere della Sera Santo Versace dice: esco dal PDL, si sta sbriciolando tutto. Santo Versace racconta a Fabrizio Roncone, parlando di sé in terza persona: si era un po' rotto di stare nel PDL a non fare niente, in quel partito decidono tutto Cicchitto e altri tre o quattro, io ho sopportato, ma poi basta. Ho visto da dentro come funziona il PDL, pensano a loro, ai loro interessi, e prenda anche ciò che è accaduto l'altro giorno, la vicenda del ministro Romano, che rimane lì nonostante l'ombra tremenda di Cosa Nostra. E io che ho fatto? Non mi sono presentato a votare. Sa perché? Perché mi chiamavano amici di Palermo, Catania, Siracusa, imprenditori e non comunisti forcaiolo. Tutta gente che ha sempre votato per il centrodestra, però mi diceva: no, santo, non potete fare restare lì Saverio Romano nel Consiglio dei Ministri. Insomma, un Santo Versace che dice lascio il Popolo della Libertà, il PDL, però mi scrivo nel gruppo misto. Questo dal punto di vista della politica, ma come detto c'è un'ampia pagina di economia, di finanza da aprire, che oggi presenta alcuni aspetti molto interessanti. Tra l'altro vi voglio segnalare che da domani inizia una nuova iniziativa del Sole 24 Ore, vale a dire allegata al quotidiano una serie di volumi su il risparmio e gli investimenti in tempo di crisi. Domani ci sarà il primo volume a cura di Fabrizio Galimberti, il manuale anticrisi, come affrontare la tempesta e non prendere decisioni sbagliate. Questo è il primo volume che sarà in edicola con il quotidiano da domani. Allora, la questione dell'economia italiana intanto è incentrata tutto su che cosa? Sul fatto della lettera della BCE che è stata ieri rivelata, la lettera che doveva rimanere riservata e che ieri è stata rivelata dalle colonne del Corriere della Sera, lettera che nell'agosto scorso la BCE ha spedito al governo italiano con le misure da prendere e anche con una certa urgenza per cercare di far fronte alla situazione economica e finanziaria in difficoltà. Oggi il Sole 24 Ore scrive su questo: pensioni e liberalizzazioni, la lettera BCE senza risposte per Trichet Draghi, giusta l'intesa tra le parti del 28 giugno, ma certo questa lettera fa molto discutere. Per esempio oggi il Corriere della Sera ovviamente ci ritorna con l'editoriale di Antonio Polito in prima pagina, l'uso meschino di una lettera, questo è il titolo dell'editoriale di Polito, che scrive: sarà pur vero che la BCE di lettere così ne scrive tante, ma leggere sul Corriere quella a noi indirizzata brucia come uno schiaffo in faccia, non solo per il tono ultimativo. Quando si legge le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre. E tra l'altro aggiungo io, settembre è passato, insomma, ormai. Ma anche per il dettaglio della prescrizione. È molto raro vedere due banchieri centrali, sacerdoti del bene supremo della moneta, dettare un vero e proprio programma legislativo al governo eletto di uno Stato sovrano e subito dopo fare un'altra cosa molto irrituale: regalarci un po' di tempo comprando i nostri debiti. Scrive Polito: l'esecutivo in carica ha due colpe. La prima è di aver tentato furbescamente di rinviare il pareggio di bilancio dopo le elezioni nel 2014, ma la seconda colpa, forse peggiore, è aver fatto credere negli anni agli italiani che la sua azione aveva reso inutili tutte le prediche mercatiste e le riforme liberiste, perché avevamo ormai il sistema pensionistico più in equilibrio, il mercato del lavoro più flessibile, i conti pubblici più virtuosi del continente. Ma la pubblicazione della lettera sconfessa anche l'opposizione di sinistra, che ha ora davanti a sé un programma che per lei sarebbe anatema, con la CGIL in piazza e Vendola nel governo. Non solo il ministro Sacconi diceva il vero quando giurava che le norme sul mercato del lavoro nella lettera della BCE c'erano e come, ma ve lo immaginate un governo Bersani che debba ridurre lo stipendio ai dipendenti pubblici, come c'è scritto nella lettera, privatizzare su larga scala la fornitura di servizi locali, rendere più rigorosi i criteri per le pensioni di anzianità, introdurre l'uso sistematico di indicatori di performance nel pubblico impiego, soprattutto nei sistemi giudiziario, sanitario, dell'istruzione, cioè nelle case matte della sinistra? Ecco, Polito dice: in fondo è stato fatto poi, tra l'altro, un uso sbagliato e meschino da parte della politica italiana di quella lettera. Tra l'altro, sul Manifesto, Loris Campetti fa un editoriale dal titolo Inaccettabile BCE, una lettera segreta della BCE, pubblicata dal Corriere, straordinaria tanto per la sua lucida coerenza quanto per la sua prepotenza, una prepotenza legittimata prima ancora che dalle regole e dalla sua assunzione passiva da parte dei governi di tutti i colori. Se lo dice la BCE è vero, così come ha ragione Standard & Poor's se ci declassa. Si potrebbe dire, scrive Campetti in prima pagina del manifesto, che il segreto che copriva la lettera era il segreto di Pulcinella. Chi non immaginava che avrebbe ordinato tagli allo Stato sociale, alle pensioni, ai salari, privatizzazioni, liberalizzazioni? Eppure perfino il segreto di Pulcinella ci può stupire e anche farci incazzare. Questa è la reazione del manifesto. Insomma, questa lettera della BCE pubblicata ieri certo ha fatto molto e sta facendo molto discutere, soprattutto per quelli che sono i contenuti, gli inviti anche molto energici da parte della Banca Centrale di misure da intraprendere per far fronte alla situazione italiana. Intanto dal punto di vista economico il governo insomma continua in questo braccio di ferro, soprattutto che vede in Tremonti e Berlusconi, non è una novità, i due punti di forza sulla questione della nomina di Banca Italia, del successore appunto di Mario Draghi. Il Sole 24 Ore, che ieri aveva anticipato questa idea della terna, ora pare che la terna di nomi sia proprio la soluzione per cercare di uscire dall'impasse. Anche Rossella Bocciarelli anche oggi ci torna su questo tema. Banca Italia avanza la terna, ultimo scontro nel PDL, non sarà per oggi perché non è prevista alcuna riunione di governo. Tuttavia, come anticipato dal Sole, potrebbe essere questo proprio il percorso scelto nel prossimo Consiglio dei Ministri per superare questo stallo tra candidature contrapposte per la successione a Draghi. Si può pensare a una terna. La terna sono i due candidati principali, vale a dire Fabrizio Saccomanni, che resta in pole position, che già è alla Banca Italia, direttore generale, e Vittorio Grilli, che invece è il candidato più tremontiano, direttore generale del Tesoro. Il terzo nome di questa possibile terna dovrebbe essere Lorenzo Binismaghi, vale a dire il membro italiano nel board della BCE attuale. Dovrebbe avvenire così, con una terna i ministri in Consiglio dei Ministri che sceglierebbero, voterebbero proprio, no? Il loro candidato, e quello che ottiene più voti diventerebbe il candidato numero uno. Sta di fatto che insomma questo è sintomatico appunto di un impasse, di un braccio di ferro tra Berlusconi e Tremonti, tanto che Elena Polidori racconta, pagina 4 di Repubblica, di come il Presidente del Consiglio stia pensando a una sorta di cabina di regia del PDL, questo è il titolo, per imbrigliare Tremonti. Una sorta di cabina di regia nasce al termine del vertice di maggioranza per cercare di imbrigliare appunto le decisioni di Tremonti. Il vicepresidente della Camera Lupi spiega che il neonato organismo riferirà a Berlusconi, a Letta, lo stesso Tremonti che ieri era assente a Palazzo Grazioli, cioè un tentativo in qualche modo di far prendere decisioni più collegiali per cercare di arginare l'accusa che viene spesso fatta a Tremonti di far calare le decisioni dall'alto senza consultare nessuno. Intanto, e da qui ripartiremo dopo il traffico, c'è il manifesto che oggi viene annunciato dalle imprese, una sorta, qualcuno racconta come sul Corriere della Sera, di contromanovra che oggi le imprese insieme all'ABI, dunque le banche, presenteranno, e che prevede novità su pensioni ma anche altre cose. E allora la risposta delle imprese al governo, così la definisce Giovanni Stringa a pagina 8 del Corriere della Sera, qualcuno già la chiama una contromanovra, sarà presentata oggi dal leader di Confindustria Emma Marcegaglia, dell'ABI Giuseppe Mussa, di Rete Imprese Italia Ivan Malavasi, e dell'Alleanza Cooperativa Italiana Luigi Marino e dell'ANIA Fabio Cerchiai. È un documento con numeri, misure concrete, insomma, è per questo definita una sorta di contromanovra. Secondo le prime indiscrezioni, 5 i punti del documento, una ventina di pagine in tutto: previdenza, spesa pubblica, riforma fiscale, cessione di beni pubblici e privati, liberalizzazione, infrastrutture e sull'energia. Il capitolo del fisco, per esempio, vedrebbe tutti uniti nella lotta all'evasione fiscale, con il limite massimo di 500 euro per le transazioni in contante. In campo fiscale si dovrebbe arrivare a proporre una patrimoniale tra lo 0,1 e lo 0,15% ogni anno e non una tantum. Meno tasse per i lavoratori e le imprese, la conferma degli incentivi per l'edilizia, l'efficienza energetica, la legge delega da attuare in tempi rapidi. Insomma, questi dovrebbero essere alcuni dei punti che vengono presentati in quella che viene definita una sorta di contromanovra oggi. Certo, sta di fatto che per quel che riguarda, per esempio, le cosiddette vendite del patrimonio pubblico, ieri c'è stato un Tremonti che su questo ha rilanciato. Infatti tutti i giornali oggi dedicano una pagina, se non di più, anche commenti editoriali su questo tema, vale a dire le dismissioni del patrimonio pubblico da immobili e diritti, 40 miliardi. Così titola pagina 13 Il Sole 24 Ore con Isabella Bufacchi, che scrive: l'Italia vanta uno dei più ricchi estesi patrimoni pubblici al mondo. Già nel 2001-2004 era stato valutato in 1815 miliardi a valore di mercato, ma è gravata anche da uno dei più grandi debiti pubblici su scala mondiale, 1900 miliardi. Però ecco, questa è l'idea rilanciata anche dal Foglio. Il Foglio di Giuliano Ferrara da mesi puntava su questo schema: vendere. Ecco che sotto il titolo salutari privatizzazioni, oggi Tremonti appende il cartello vendesi sul patrimonio pubblico. È giunta l'ora di vendere, si chiede il Foglio. E ci sono già tutte le varie stime per La Stampa, che dedica un dossier su questo, sul tesoro dello Stato. Gli immobili pubblici hanno una dote che vale almeno 10 miliardi di euro, le stime del tesoro, più incassi e meno spese. Mentre per Libero, a pagina 9, insomma, poi qua le cifre volano anche un po' così, dalla vendita dei beni pubblici 700 miliardi, insomma 10 miliardi, 700 miliardi. Non si capisce bene, le cifre un po' volano qua e là. Certo, diciamo, per chiudere su questo tema con un sorriso, vince, come spesso accade, Iena, alias Riccardo Barenghi, sulla Stampa, pagina 3. Il commento oggi è S. Abbiamo vinto, il governo ha annunciato le dimissioni. Dismissioni, Bersani, dismissioni. E beh, insomma, andiamo a vedere che cosa succede invece al TG1, dove l'ufficio del direttore Minzolini ieri ha subito la visita della Guardia di Finanza. Beh, una vicenda che per qualcuno è apparsa un po' esagerata, nel senso che la vicenda e la causa intentata da Tiziana Ferrario, conduttrice del TG1, che secondo il giudice del lavoro non è stata reintegrata al suo posto da inviata e conduttrice, e allora la Guardia di Finanza ha bussato all'ufficio di Minzolini per acquisire dei documenti su questa causa. Oggi Minzolini si difende in un'intervista al Giornale, a pagina 3, che boiata, vogliono solo intimidirmi. Intanto, dice, sul caso Ferrario nessuna punizione, le ho offerto un posto più importante. La Busi se n'è andata da sola, invece. Insomma, entrambe stavano lì da 20 anni, ho voluto solo fare un ricambio generazionale. Torniamo su questo tema, che per la verità è un tema abbastanza vecchio, già dibattuto. Poi però Minzolini dice alcune cose che certo faranno storcere il naso a chi è un super critico. Alla domanda di Laura Rio, non sarà che lei fa un giornale troppo schierato col centrodestra? Risponde Minzolini, non sarà invece che io do notizie e di notizie ne do troppe e do quelle che gli altri nascondono? Come l'inchiesta sui presunti condizionamenti della Camorra nelle primarie del PD a Napoli o quella su Penati a Milano? Beh, insomma, tutte a senso unico, appunto. Ma noi diamo anche le altre, pure quelle delle intercettazioni sulle notti di Berlusconi. Non faccio sentire registrazioni scabrose per rispetto del pubblico. E poi, eccolo qui, dato che l'informazione in Italia è quasi tutta orientata a sinistra, dice Minzolini, io offro un'altra visione. Insomma, completo il panorama dei media. Quindi lei conferma di fare un TG schierato? No, faccio un TG nazional popolare riadattato. E poi comunque Minzolini definisce appunto una boiata, un'intimidazione questa della Guardia di Finanza. Vi segnalo secondo me imprescindibile oggi su Repubblica, tre pagine dal titolo "Così parlò Totò Riina". È un documento straordinario che Repubblica oggi mette in pagina a firma Tilio Bolzoni, uno dei giornalisti che da anni segue con maggiore intelligenza e con maggiore sapere, sapienza, il tema della lotta alla mafia. A novembre farà 81 anni e a sentirlo sembra ancora quello di una volta. Sono le lettere, i documenti di Totò Riina, anche i verbali di uno dei rarissimi momenti in cui il capo della mafia ha deciso di parlare in vari interrogatori. Sono uno che mi faccio i fatti miei, sono al di fuori del mondo, se sono il capo dei capi, questa è la frase più incredibile, se sono il capo dei capi della mafia non sono tenuto a dirlo. Io se faccio parte di Cosa Nostra o se sono il capo dei capi o il sottocapo dei sottocapi non sono tenuto a dirlo né a lei né a nessuno, ha detto al procuratore Lari che lo interrogava. Tengo a precisare pure di non mi fare questa domanda perché io sono per i fatti miei e voi altri siete per i fatti vostri. Lei fa il procuratore di Caltanissetta e io sono Salvatore Riina da Corleone. L'italiano è un po' zoppo qua e là, ma è un documento che vi segnalo. Così parlò Totò Riina, 42 e 43 le pagine di Repubblica, dove lo trovate. Ora ci fermiamo, è tempo di giornale radio. Mattino. Allora, le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Se uno legge oggi i giornali, apre i giornali, sente e legge di un Berlusconi che tuona contro le intercettazioni, da regime comunista, faremo la riforma, e parla di un PM, di PM che vogliono farmi fare la fine di Bettino Craxi, ma non ce la faranno. Tutte ste nazioni fatte a casa dell'onorevole Alessandra Mussolini, che saluto. Buongiorno onorevole Mussolini, eccoci. Buongiorno. Qua in una festa, la festa di compleanno di Berlusconi, no? Erano i 75 anni festeggiati, credo, a mezzanotte. In realtà era la sua festa, sua. Ma è stato un combinato disposto, perché io avevo organizzato questa cena a casa mia, perché per l'esame di Stato, per l'iscrizione all'ordine dei medici, e poi era anche il compleanno del presidente. Quindi, quindi cioè lei onorevole Mussolini, è entrata nell'ordine dei medici, quindi festeggiava questo e se. Sì. E, se diciamo. E poi era anche il compleanno del presidente, quindi. Senta, che non ha però tuonato, come dite voi. Non ha tuonato. Era molto nel senso. Ed è stata una cosa privata, quindi non. Però, mi hanno riportato questo. No, come leggiamo male. Sui giornali, avrà detto qualcosa sulle intercettazioni, queste cose per esempio contro i PM le ha dette? Ma lui, io lo guardi, non parlo di quello che lui ha detto, perché francamente leggere poi sui giornali quello che è stato detto e riportato è abbastanza singolare. Ecco, io mi chiedo come sia possibile, comunque questo lo lascio a chi meglio di me potrà scoprirlo. La cosa secondo me più bella, ecco, che posso riferire, che ha detto il presidente, è stato mio figlio Romano, che ha 8 anni, e gli ha detto: tu quando sarai grande avrai sicuramente tante donne, ma nessuna donna ti amerà mai come ti ama tua madre. Ecco, queste sono cose che colpiscono, perché lui è sempre una persona generosa, ironica, perché diciamo le sue battute, una forza incredibile, e quindi ha entusiasmato tutti i presenti. Ma anche questa vice, che eravate in tanti? Questo ce lo può dire. Certo, non è che eravamo. No, voi due, no. In tanti, sì, una trentina. Una trentina. Allora qualcuno avrà parlato, onorevole Mussolini, ai giornali, avrà raccontato qualcosa. Vedete di voi, succede. Io non lo so. Cioè, questo paragone con Craxi, di Craxi ha parlato o no? Questa cosa. Ma di... io di questo non parlo, non della cena, perché io lo trovo veramente, ecco, poco opportuno. Allora, ci racconti un po', vuole entrare in questo discorso? Che cosa ne pensa lei delle cene di Berlusconi, invece, quelle che lui definisce cene galanti, e tutte sono tutte accuse sbagliate? Lei. Ma io penso questo: il presidente ha detto una cosa che è vera, perché me ne sono resa conto anche dalle mie conversazioni banali al telefono. Ormai gli interlocutori dicono: è meglio che ci vediamo e ne parliamo a quattro occhi. Cioè, c'è veramente ormai un terrore nel parlare al telefono per le intercettazioni, perché ormai veramente si è tutti intercettati in modo proprio illecito, fuori luogo, come fosse uno stato di polizia. Ma è davvero così? Quindi, ma a me è capitato anche per banalità, che molto spesso si dice no, non parliamo al telefono, ci vediamo. Infatti ci sono moltiplicati gli incontri a quattro occhi, cioè c'è un condizionamento in atto. Ma è una non è più una cosa psicologica, cioè un'idea che è stata diffusa, perché poi i dati dicono che non siamo un paese di persone tutte intercettate. Sicuramente dati alcuni dei ministero, come, alcuni come il presidente sono intercettati, perché 100.000 intercettazioni, quante sono state fatte, sono veramente una cosa, bisognerebbe riflettere solo su questo, cioè a parte una spesa economica, intercettazioni che poi sono irrilevanti. Infatti mi hanno spiegato che molto spesso quando ci sono le intercettazioni, chi poi le riceve, chi le sente materialmente al telefono, scrive su un foglio, su un brogliaccio, non rilevante, inutile, quindi non vengono proprio trascritte. Invece è chiaro che quando uno parla al telefono può fare delle battute, può dire delle cose che, se estrapolato, ognuno di noi fa battute, quante ne dico io al telefono. Però questa è un po', anche se lo immagina, onorevole, questa non è un po' la difesa a oltranza, cioè qualcosa di quello che si è letto, qualche considerazione la farà fare. Le posso dire una cosa. È importante anche capire che noi stiamo vivendo un momento drammatico per l'Europa, e io credo non solo per l'Europa, perché se anche Obama comincia a vendere i gioielli di Stato, anche lui, isole intere, è chiaro che c'è un problema. E io credo che in questo momento acuire la situazione con cose che non sono rilevanti, e tra le altre cose si aggiunge e il monito della Chiesa e la Marcegaglia col perizoma, che l'ho visto io a Striscia la Notizia, che dice che attacca pesantemente il governo, addirittura i giovani industriali non vogliono alcun politico. Cioè bisognerebbe stare tutti zitti, bisognerebbe... No, abbassare i toni, perché se i giovani industriali non vogliono i politici perché chissà che cosa succede, troppe promesse vane eccetera, si facessero anche loro, io credo, un esame di coscienza, vediamo se c'è tra di loro evasione fiscale, vediamo quante barche c'hanno intestate a società di comodo. Capito, quindi la linea un po' tutti colpevoli, quindi nessuno può puntare il dito. Cioè... No, è la linea di dare pesantemente addosso al Presidente del Consiglio, ma io direi estenderei allo stesso governo, in un momento dove invece bisogna tirare i remi in barca, come sta facendo la Merkel, che ha perso anche lei le elezioni in tutti i modi, in lungo e in largo. Però proprio per il bene dell'Europa, non solo dell'Italia, bisogna avere un atteggiamento responsabile. Ma le chiedo, quindi, dallo spaccato di intercettazioni, lei dice che sono tutte interpretabili in qualche modo, ma non emerge nulla che lei le fa dire, beh, insomma, questa cosa, ma però lei, non sono non poco... Ma a me non mi interessa quello che emerge, a me interessa l'attività del Presidente del Consiglio, il fatto che lui abbia una carica che non ce l'ha neanche un uomo di 20 anni o 30 anni, giovane in forze, perché ha ammaliato tutti i presenti con la sua energia, con la sua carica. Io non vedo, francamente, guardi, le devo dire la verità, io non vedo in questo momento un'alternativa a Berlusconi. Ma non perché non ce ne siano, perché ci sono persone certamente valide, ne cito una per tutti, lo stesso Alfano è una persona valida, responsabile, riesce a legare all'interno del PDL, però il carisma che ha Berlusconi non ce l'ha nessuno, mi dispiace. Basta il carisma, lei dice. Ma il carisma è molto importante. In un momento in cui tu devi anche attrarre e andare in una situazione che è molto incerta, perché aumenta l'astensionismo, molta gente non vuole andare a votare, perché? Perché è chiaro che quando sei in una crisi economica, è certo che è tutto quanto molto più complicato, e se stai al governo è chiaro che non è che puoi dire la responsabilità è dell'opposizione che sbraita o di Bersani che si alza sulle maniche e fa tutte le interviste con le maniche alzate, cioè bisogna capire che un po' di tutti. Dall'altra parte non ci sono interlocutori credibili, non c'è una proposta credibile, c'è solo un attacco ogni giorno a Berlusconi. Lei vede da questo, parte l'attacco quotidiano. L'attacco quotidiano è su tutti i giornali. Per chiudere, mi dica questo, che ne pensa della frase e del dibattito che si è generato, mai più Nicole Minetti in consigli regionali? Si prende emblema Nicole Minetti come persona che non ha, diciamo, una carriera politica alle spalle ed è stata paracadutata in consiglio. Ma io credo che anche questo, si parla di questo perché non ci sono altri argomenti, allora la si butta ormai sul gossip, sull'esteriorità, su ciò che non è importante. Io credo la scelta politica, la scelta di chi ci governa è importante. Ma io credo che al di là della Minetti ci sono in consiglio regionale tantissime persone valide, ne bastano 3 o 4, così come bastano 3 o 4 ministri validi per far muovere il governo su alcune direttive, il resto è insomma marginale. Ho capito, quindi mettiamo 3 o 4 validi e gli altri primi che passano. No? Ma questo è chiaro, non quelli che passano, però voglio dire, parlare di questo, di questa signora, di altre, proprio non, è inutile, è solo un gioco al massacro per l'Italia, perché all'estero già godono a parlare male di noi. Figurarsi con questo. Va bene, la ringrazio, buona giornata onorevole. Grazie Alessandra Mussolini del Popolo della Libertà. Noi parliamo di politica, di quei tagli alla politica. Da quanti anni sentiamo, e di recente ancora di più, che bisogna tagliare, dimezzare i parlamentari? Queste proposte di legge che fine hanno fatto? Allora, alle 8:37 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta. A parole sono un po' tutti d'accordo sul taglio dei parlamentari, anche gli stessi parlamentari che propongono fanno delle varie proposte di legge. Per esempio, ne sono incardinate 6 alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, 6 proposte di legge. Chi vuole dimezzare tra deputati e senatori, chi ne propone scendiamo a 600, 400 alla Camera e 200 al Senato, chi dice 200 di qua e 200 di là, 200 alla Camera. Insomma, tagliamo. Poco fa l'onorevole Mussolini ai nostri microfoni ha detto: ma insomma, il carisma è quello che conta, bastano 4 persone e si risolve tutto, 4 ministri che risolvono tutto, fanno tutto loro e gli altri non servono. E allora viene da dire: perché manteniamo così tanti parlamentari? Ma insomma, ne parliamo con Sergio Rizzo, che saluto. Buongiorno Rizzo. Buongiorno. Nel Corriere della Sera e tra l'altro in libreria con Gian Antonio Stella in questi giorni, con il nuovo Licenziare i Padri Eterni. Saluto anche il presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato, il senatore Carlo Vizzini del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore. Buongiorno, eccoci qua. A lei. Allora, intanto Sergio Rizzo ieri ne ha scritto sul Corriere della Sera delle proposte, insomma sono tante le proposte, ma sono proposte, ecco, poi che ne è di queste proposte di tagliarsi? Beh, insomma, diciamo, ci stanno provando, nel senso che la Commissione di Vizzini sta lavorando da tempo su questa serie di proposte, sono arrivati anche a una mediazione e credo che oggi scada tra l'altro il termine per presentare gli emendamenti, quindi loro stanno lavorando, diciamo, compatibilmente con tutte le altre cose che hanno da fare, perché ho visto che nel calendario per esempio ci sono tanti altri provvedimenti, il che secondo me diciamo, contrasta un po' con tutta la fretta che ci hanno raccontato di avere anche al governo, no? Di fare queste riforme costituzionali. Ma quello che desta secondo me perplessità è un altro aspetto, cioè il fatto che mentre c'è tutto questo lavoro in Commissione Affari Costituzionali, che potrebbe benissimo essere fatto proprio in qualche modo anche dal governo, no? Perché il governo non presenta degli emendamenti, non interviene su questi disegni di legge già incardinati e consente che vadano in porto, che ci sia un risultato rapido. Invece presentano un altro progetto di legge costituzionale. Poi ho visto che Alfano addirittura ha annunciato che avrebbero presentato come Popolo della Libertà un ennesimo progetto di legge per ridurre i parlamentari. Cioè, quindi non ci sono tantissimi progetti di legge, tantissime proposte, ma insomma è così, lo chiediamo Presidente Vizzini, è così difficile far passare un taglio dei parlamentari? Cioè voglio dire, siete voi parlamentari che volendo potete tagliare, non dico in 448 per carità, ci sono le procedure eccetera, ma è così difficile perché ne allora, sentiamo parlare ma... Le dico, parlerò con grande franchezza, sì. Se vuol sapere se è difficile, certo non è una cosa facile perché si tratta dei parlamentari in carica che debbono tagliare se stessi. Ah, ecco. Quindi è evidente che c'è una fascia di parlamentari che guarda questa cosa, guarda la propria collocazione nel partito e si sente già escluso. Ma questo è un sentimento legittimo che i parlamentari possono avere. Poi però contano i fatti. Il 27 di luglio... la Commissione all'unanimità ha deciso di mettere l'argomento della riduzione dei parlamentari all'ordine del giorno della prima seduta dopo la pausa, pausa che in realtà poi è stata abbastanza breve per cui abbiamo anche anticipato un poco questo tipo di lavoro. I disegni di legge sono quelli che erano già stati presentati nel corso della legislatura, siamo arrivati a un testo unificato sul quale che era necessario per poter presentare gli emendamenti, perché è evidente che per aprire il termine degli emendamenti ci vuole un testo unificato, se no non si capisce a che cosa si presentano gli emendamenti. Oggi alle 13 scade il termine, dalla prossima settimana ci sarà l'illustrazione degli emendamenti ed il voto. Quindi dal punto di vista procedurale noi siamo stati di una velocità che altri provvedimenti non hanno mai avuto. E soprattutto io ho preso atto di due cose: A, che l'opposizione mi chiedeva, aveva chiesto di fare questa cosa; B, che in una delle mitiche riunioni della maggioranza, quella che ad Arcore durò 8 ore, il comunicato che venne emesso diceva addirittura dimezzamento dei parlamentari. E quindi prendo anche atto della volontà delle forze politiche parlamentari, perché un presidente di commissione non è che ha poteri esecutivi, è evidente che il calendario lo si fa o tutti d'accordo o si deve votare a maggioranza. No, questo sì, è che era uscito, e su questo vorrei anche ricoinvolgere Sergio Rizzo, di recente anche su Libero, ma anche ieri tu ne scrivevi sul Corriere della Sera, di resoconti all'interno della Commissione Affari Costituzionali, nella quale alcuni senatori che magari dicevano no, vanno tagliati i parlamentari, poi seduti in commissione hanno detto delle cose un po' diverse. Per esempio il senatore Battaglia, leggo da Libero qualche giorno fa: contesto l'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari sotto la spinta emotiva dell'opinione pubblica. O il senatore Saltamartini: le proposte di ridurre il numero dei parlamentari hanno un significato populista e demagogico, e così via. Insomma, ce ne sono anche altre dichiarazioni. Allora Rizzo, la questione è: dobbiamo pensare che ci dicono una cosa davanti e ne fanno un'altra dietro, per essere molto duro? Ma diciamo, verrebbe da pensare questo, no? Certo che è abbastanza surreale leggere quei resoconti, perché poi sono gli stessi che propongono di tagliare. Insomma, alcuni di questi parlamentari che hanno rilasciato queste dichiarazioni in commissione sono poi gli stessi che hanno presentato progetti di legge, no? Perché per esempio c'è una dichiarazione meravigliosa di Lorenzo Bodega, che appunto è della Lega ed è uno dei firmatari tra l'altro è uno dei disegni di legge più draconiani da questo punto di vista, no? Perché è quello che prevede proprio il dimezzamento, no, meno del 200 e 200 credo, esatto. Ebbene, lui a un certo punto dice: beh, però insomma stiamo attenti perché no, il tema, quindi... no, la leggo perché l'hai messa tu, e quello del numero dei parlamentari non è un tema particolarmente sentito dai cittadini, però ha proposto di tagliare i parlamentari. Appunto, dico, quindi io concordo su queste perplessità, intendiamoci. Io per esempio personalmente sono convinto che questo qui sarebbe un argomento che andrebbe ponderato molto attentamente. C'è un problema di rappresentanza, per questo io ritengo che tutto quello che si sta, che a cui stiamo assistendo sia abbastanza così comico anche per certi aspetti, perché io credo che se un Parlamento avesse davvero voluto affrontare questo problema avrebbe forse cominciato molto prima, no? Forse avrebbe capito che la legge costituzionale ha bisogno di un percorso che è un percorso abbastanza complesso, bisogna ragionare, bisogna discutere, probabilmente avrebbero forse cominciato all'inizio della legislatura, no, chissà, no? C'era tutto quel tempo. E infatti, se una, effettivamente fine? Una riforma costituzionale ha dei tempi, ma al senatore Carlo Vizzini, dopo le informazioni sul traffico, vorrò ripartire da qui proprio perché ha esordito dicendoci parlo con franchezza e ci ha fatto capire che, come si usa dire, i tacchini che vogliono festeggiare il Natale non se ne trovano tantissimi in giro. Allora cercheremo di capire se effettivamente ci sono dei parlamentari, dei senatori che dicono delle cose e poi si siedono in commissione, magari propongono anche dei tagli per legge, poi si siedono in commissione e dicono, fanno delle dichiarazioni che un po' contrastano. Allora, alle 8:46 minuti, in questo taglio dei parlamentari, senatore Vizzini, diciamo, il paradosso che raccontava Sergio Rizzo è quello del leghista Bodega, ma non è l'unico che ha proposto di tagliare a 2,50 e 2,50 senatore parlamentare alla Camera e poi dice però non è un tema interessante. Cioè non è che state facendo una discussione per placare un po' la sete anticasta del popolo, ma in realtà non se ne farà nulla? Guardi, il Parlamento non funziona così. Ho detto all'inizio che sarei stato franco e lo sarò fino in fondo. Noi stiamo andando avanti con procedure che non si possono, che difficilmente si fermano, perché presentati gli emendamenti, illustrati gli emendamenti, si procederà al voto sugli emendamenti e col voto ognuno si assume la sua responsabilità. E io sto facendo dare la massima pubblicità ai lavori che si trovano sul web già il giorno stesso che noi facciamo le sedute, e se il regolamento non me lo impedisse avrei consentito anche il circuito televisivo interno perché ci fosse proprio grande chiarezza sui lavori, perché la gente deve sapere. Il parlare, il manifestare alcune preoccupazioni non significa determinarsi comunque a un voto che poi è negativo. Il tema vero qual è? Noi abbiamo avuto anche un dibattito in aula questa settimana e io ho fatto un intervento per essere estremamente chiaro anche in aula. Il governo ha presentato con procedura d'urgenza un suo disegno di legge che comprende anche altre cose, non solo la riduzione dei parlamentari. E io credo che probabilmente se si riuscisse a lavorare sulla differenziazione delle due Camere sarebbe un fatto che darebbe grande vantaggio all'attività legislativa, per evitare che ogni disegno di legge deve passare con lo stesso testo due volte, una volta alla Camera, una volta al Senato, e se c'è una modifica anche di una virgola deve tornare alla Camera precedente. E va bene, terza, è un lusso di tempo che non ci possiamo più permettere per fronteggiare la velocità della società e di oggi. Però deve essere chiaro, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma deve essere quello su cui troviamo la maggioranza dei due terzi, perché tutto quello che dovesse essere sottoposto al referendum, mentre noi abbiamo il tempo di varare una riforma costituzionale, sia della riduzione, aggiungendoci anche qualche altra cosa, se dovessimo andare con una maggioranza semplice che ci porta al referendum, il referendum si dovrebbe fare dopo le elezioni e le cose entrerebbero in vigore, se tutto va bene, nel 2018. Presidente, la questione, cioè l'idea, ma non so se Sergio Rizzo su questo mi vuole supportare, è che ecco, io a un disegno di questo genere non mi presterei, cioè per riuscire a fare questo debbono battermi le forze politiche, debbono venire in commissione e debbono battere la volontà del Presidente di andare avanti, e questo sarà un fatto che se avviene davanti agli occhi di tutti. Io non credo che questo avverrà e credo che alla fine arriveremo a conclusione. Però questo è un ottimismo sul quale Sergio Rizzo, cioè la gente, gli italiani hanno dato molto credito alle promesse, perché tu ieri ricordavi Bossi nel 2007, bisogna ridurre i parlamentari, Berlusconi nel 2009, dimezzeremo i parlamentari, Di Pietro, dimezziamo i parlamentari, Franceschini, dimezziamo i parlamentari, è la priorità del PD, cioè una priorità per tutti, ma non so, sono solo tecnicismi e tempi tecnici che non permettono questa cosa? Al di là della buona volontà, che pure c'è, perché io sono disposto a concedere al senatore Vizzini tutta la fiducia possibile. Io credo che lui sia davvero convinto di riuscire a portare a termine quel lavoro, per carità. Io credo anche che abbia ragione quando dice che una riforma del genere ha bisogno dei due terzi, perché inevitabilmente abbiamo già visto, no? È successo nel 2006, che poi è stata impallinata dal referendum, quindi è necessario questo. Quello che però mi pare di cogliere nelle forze politiche, attenzione, non nei singoli parlamentari, però diciamo come disegno sottostante, è che tutto sommato se passa la nottata senza che si faccia troppo, cioè senza farci troppo male, è forse meglio, no? E la prova di questo è la proposta che ha fatto il Partito Democratico, che io trovo veramente quantomeno singolare, di creare una commissione speciale, no? Che esamini queste riforme costituzionali. Ci vuole una commissione, adesso diciamolo chiaramente, Zanda dice di no, senatore Zanda del PD, ma io credo che sotto sotto ci sia veramente un intento dilatorio, perché non si spiega diversamente. Ma come, c'è già una commissione affari costituzionali che si chiama affari costituzionali, vogliamo farne un'altra ancora? Non sarebbe sufficiente, non so, assumere, io ora non conosco esattamente i regolamenti parlamentari, però non sarebbe molto più facile, per esempio, dedicare tutta l'attività della commissione all'esame approfondito di questo tema per arrivare rapidamente a una conclusione, magari sgombrando il campo da altri provvedimenti, insomma, che oggettivamente possono essere rimandati. Ma si sa che una delle vulgate della politica italiana è: quando non vuoi fare una cosa crei una commissione, ecco, questo spesso si dice. Non sarà questo il caso, vogliamo dare la fiducia sempre, no, non sarà questa commissione che rientra in questa vulgata, ma insomma, certo, la proposta di una commissione. Fatemi sentire 800 24 00 24, uno o forse due ascoltatori, se siete brevi. Anna da Pescara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Allora, io volevo semplicemente esprimere il mio disappunto per tutto quello che sta accadendo, cioè il fatto che hanno fatto comunque scadere il termine per quanto riguarda quindi il taglio alla spesa dei parlamentari. Io volevo chiedere semplicemente questo: come mai non si è mai parlato a Radio 24, a meno che non mi sia sfuggita la cosa, vediamo, del presidio permanente che c'è davanti a Montecitorio da circa 4 mesi? No, scusi, sta parlando di Gaetano Ferrieri? Sì, sì, sto parlando che ospita... di lui. Ma scusa, guarda, Anna, posso dire, Radio 24 è l'unica radio che ha ospitato 3 volte, l'ho fatto io anche settimana scorsa, per mezz'ora Gaetano Ferrieri, ospiti dalle 8.30 alle 9, quel giorno evidentemente non aveva acceso la radio, Anna, con noi, Gaetano Ferrieri, quindi... Comunque, vabbè, questo mi fa immensamente piacere, comunque dar voce al popolo e comunque insomma... Che sta facendo lo sciopero della fame da 100 e rotti giorni, adesso perso il conto davanti a Montecitorio. Comunque lei esprime il suo disappunto, ma Gaetano Ferrieri è stato nostro ospite, spesso lo sentiamo, ci dice chi lo incontra, chi non lo incontra. Marco da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intervenivo rispetto al costo dei parlamentari, la riduzione, sì, eccetera. Sì. La mia opinione è che, stante la legge elettorale che abbiamo di nominati, sarebbe opportuno pensare semplicemente al taglio del costo e quindi dimezzare completamente ogni loro... Così. Beh, guarda che però se si dimezza il numero, i costi, no? Su questo poi l'abbiamo perso un po' col cellulare. Sergio Rizzo, se si dimezza il numero, sì, si risparmia molto di più che dimezzarne lo stipendio, no? Mi immagino. Beh, perché ogni parlamentare porta una struttura anche. Sì, sì, non c'è dubbio, però non ci dimentichiamo che la Camera e il Senato hanno dei dipendenti che non è che possono essere licenziati in proporzione, no, della riduzione dei parlamentari, quindi credo che, diciamo, per un po' di tempo il taglio del risparmio non sarà la metà, sarà qualcosa di meno della metà, no? Perché c'è tutta la struttura delle Camere che... Ma ci accontenteremmo, comunque... cioè, Sergio, ci accontenteremmo o no? Non sì. Ci accontenteremmo almeno di quello. In ogni caso, no, io vi devo fermare perché il tempo è scaduto. Vi ringrazio molto il senatore Carlo Vizzini, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato del Popolo della Libertà, e Sergio Rizzo, di cui voglio ricordare, oltre inviato al Corriere della Sera, anche con Gian Antonio Stella, Licenziare i Padreterni, che trovate ovviamente in libreria. Ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Carmelo Lauricella, che ha spedito l'Alpino da non so quale parte. Noi abbiamo l'Alpino qui a Radio 24 in regia. che sia chiaro per chi millanta in altre radio di avere altri corpi, noi l'alpino. Ebbene sì. E allora, che dire, 800240024 è il numero per intervenire anche con Oscar Giannino, a cui passo il microfono. Noi ci troviamo lunedì mattina alle 7:20.